vanno al limite anche dei risparmi, dei tagli che devono essere fatti, avendo il coraggio di spiegarlo con i conti che dicevi tu. Allora, se questa volontà c'è, le modalità si trovano, perché non c'è bisogno che ci sia il consiglio di circoscrizione per legge, si possono fare delle consulte su dei temi, delle associazioni. E anche le commissioni aperte, si potrebbe partecipare alle commissioni. Ecco, il problema sta nella volontà. Ti interessa oppure vai a... Io devo dire, ho seguito poco alcune polemiche, però accendere la televisione e vedere le risposte che il sindaco dà di fronte a delle espressioni di insoddisfazione della cittadinanza, voglio dire, non mi interessa niente, come non considerare i propri concittadini. Allora lì non c'è sede istituzionale che tenga, la volontà di ascoltarli non c'è. Ecco, questa cosa va assolutamente cambiata e ripeto, per me, poi torno anche in maniera un po' più dettagliata sui punti, ma per me questa è la cosa che viene al primo posto, perché poi appunto l'elenco delle cose più importanti, quello che si può fare, quello che più urgente fare, quello che no, lo si vede, lo si può vedere, lo si può discutere, ma la cosa importante è il fatto di avere questo modo di approcciare i problemi e la gente. Torno poi anche sulle cose, però... C'era il signore. Posso? Mi chiamo Giuseppe Costanzo, non sono una persona abbastanza all'altezza di parlare, però parlo in parole poche, no? Mi soffermo a cosa diceva la signora, che è un grado di prestigio, no? Faccio soltanto un esempio. 4-5 mesi fa c'è stato un temporalone nella nostra città, ci abbiamo in marciapiede dall'assessore Peverevo, perché il nome a lui, andare al cimitero, sì. Non si può camminare, nessuno si interessa. Dopo io mi vorrei interessare o dire la mia idea, la viabilità nella nostra zona, Prestino, Lazzaro e dintorni. Ogni tanto la televisione fa vedere un qualcosa anormale, che dopo è normale. Quando abbiamo dei scioperi in Svizzera, tutti i tir escono a Como. Io sono italiano, sono parlamentare, però ho vissuto anche all'estero, no? Io direi se si potrebbe fare, io una volta gliel'ho detto anche al sindaco Bruno direttamente, però quando risponde, in autostrada, pure che non è di nostra competenza, di Como, quello che sia, in autostrada qui a Como si potrebbe fare. I soldi, se non ci sono, si trovano ugualmente, una rampa di uscita direttamente nel piazzale dei tir. È un progetto? Sì signora, anche io ci amo da 3 anni, lo so quello lì. Sono anche i sottopassaggi aggrandati. È una rampa di accesso in autostrada quando se ne vanno in Svizzera. Praticamente i cambi in autostrada non entrano nel nostro rondò, perché quando entrano nel nostro rondò e c'è sciopero, ci intasiamo tutte, nel nostro quartiere, non soltanto il quartiere dei Prestini e la Zaga, tutta la gente che vuole andare in autostrada. Dovrebbero risolvere quel problema lì, o prima o poi, lo so anche io signore che volevano fare dei parcheggi enormi prima di Goma, eccetera, eccetera, ma ci devono risolvere un problema di Lazzaro. Marciapiedi di Peverelli però al posto, eh? Sì, sì. Diciamo eliminate. Marciapiedi di Peverelli. Ah, Peverelli sì. Molto posto. E dopo il marciapiedi che non è più al posto. Io so che sotto passaggio di andare, No, mi sono sentito molto in sintonia con le cose che sono state dette questa sera, cioè non, alcune cose, quella del buon padre di famiglia l'avrei voluta dire io, l'ha detta lui, no? Nel senso che io credo che sia ragionevole estendere un programma, perché si fa così, insomma, no? In cui si mettono queste cose, si individuano le priorità. Io sono anche convinto che andiamo verso una situazione in cui le risorse saranno sempre meno e quindi insomma è anche brutto mettere giù delle cose che poi L'idea, secondo me, principale, però, che si può fare è quella di recuperare alcune cose che sono state dette questa sera. Cioè, io credo che sia passata proprio nella testa dei giovani, non si vede da quanti sono qua, insomma, no? È proprio diventata cosa normale che chi fa politica lo fa come fare un mestiere. Come fare un mestiere in cui si fanno soldi. Questo purtroppo non solo nel centrodestra, insomma, no? Purtroppo non solo nel centrodestra, no? Noi abbiamo avuto casi a Como in cui l'assessore che si è dimesso non è tornato a fare il suo mestiere che non ce l'aveva, ha avuto una carica da un'altra parte, magari si sono scambiati il posto, magari no. Nessuno è tornato a casa. Qui si ha l'idea che uno faccia il consigliere comunale, per poi fare il consigliere regionale, per poi fare un deputato, per poi, se invece va via dal consiglio regionale, va in una partecipata, e il candidato sindaco possibile del centrodestra d'Alessandro esce dal consiglio comunale, va alla CSM, la prima cosa che fa si raddoppia lo stipendio. E io credo siamo in una situazione in cui l'allontanamento della politica dalla politica è una cosa palpabile. Io vado, se mi riesce, tre volte alla settimana in bicicletta, e quando vai in bicicletta incontri gli altri che vanno in bicicletta, che non conosci, no? E incontri di tutto, giovane, cioè, quelli che vanno forte non li posso incontrare, perché è facile, no? E lì i ragionamenti sono sempre quelli, se intorno tu senti gente che non conosce, sono tutti ladri, sono tutti uguali, sono tutti... Questa cosa secondo me bisogna provare a rimettere in discussione, l'ha detta prima Giuliano, l'ha detta lui, no? Siamo di fronte a cose per cui si è persa addirittura la sensibilità, insomma, no? L'altro giorno il Consiglio regionale, il Consiglio regionale della Lombardia, dopo che questi hanno sbandierato, bisogna tagliare i trasporti, il welfare, perché si sono aumentati il budget del Consiglio di 1.200.000 euro, sono 3 miliardi insomma, in un colpo. L'altro giorno un deputato dell'Italia dei Valori ha detto molto chiaramente che non si può dire alla gente andiamo in pensione a 70 anni e noi prendere la pensione dopo 5 anni, no? Questa cosa qui è stata messa in votazione e hanno votato a favore 22, hanno votato contro 500. Quindi non è solo una questione di centrodestra, purtroppo è una cultura che si sta diffondendo. In cui... Allora io quello che vorrei mettere nel programma, no? Se a cappello di un programma del centro-sinistra, che sia Gisella... mi sentirei molto garantito da questo punto di vista, perché la conosco, ma vorrei che ci fosse. Ho 60 anni, quindi non credo che vorrei fare deputato. Aspettativa di vita. Insomma, non c'è questa roba, non credo, no? Io vorrei che questa cosa ci fosse, insomma, no? Io credo che, per esempio, il taglio dello stipendio del sindaco e degli assessori sia una roba, insomma, non si può dire l'assessore che dice io non ho i soldi per aggiustare le buche. Di là che non esiste, perché il compare della famiglia dice ci rimbocchiamo le mani, ci troviamo la domenica, raddoppiamo la buca, ma non è che la lasciamo così che la gente cade dentro. Dice non c'ho più i soldi, ma il tuo stipendio comincia tagliato, perché il compare della famiglia dice senti, se dobbiamo tirare, comincio io a tirare. E lì sono stipendi da 3-4 mila euro al mese, quelli che prendo un po'. Ma come si può fare per fare? No, ma come si può fare non lo so, però voglio dire che in un programma di centro-sinistra io ho un ridimensionamento di questa roba, no? L'aver cuore, quello che diceva lei, che diceva, viene oggi sui giornali che questi non sanno manco cosa c'ha in comune, no? Le case che c'ha, le strutture che c'ha, quanto le hanno affittato, quello che prendono. Io dico, queste piccole cose sono le cose che noi dovremmo cominciare a dire. A Como è necessaria la figura del city manager, punto di domanda, non lo so, so che prende un pacco di soldi. Per la prima volta come è stato istituito il portavoce del sindaco, il sindaco parla già da solo, che era un vigile, no? Che era un vigile che deve dire diventato immediatamente dirigente 5-6 mila euro e che mi pare si sia connotato come unica cosa che ha fatto, ha truccato, mi pare, il concorso per vigili. Per sera. Allora, non ne dico più abbastanza tutti i giorni. Allora, l'idea che, non so, c'è gente come me, come che quando si sono interessati alla politica l'hanno fatto con l'idea di dire vabbè, diamo una mano perché siamo un po' tutti nella stessa barca, no? Don Milani diceva, se uno risolve i problemi da sola è egoista, se li risolviamo tutti insieme far politica, no? Ecco, io credo che questa idea dovrebbe ricominciare a esserci. Allora qualche giovane probabilmente torna indietro, anche quelli che vanno in bicicletta, che incontro io, lo dico in tutti stessi, roba tutti, si accusano tutti le mani, no? Ecco, forse non è quella l'idea, però questa cosa si può fare certamente, cioè non dipende né dalle condizioni future del paese, dipende semplicemente dalla volontà di dire, noi ci candidiamo con l'idea di vedere se riportiamo un'idea del vivere civile che è quella che secondo me contraddistingue una società per bene, insomma, delle persone per bene. Tu dici cosa si può fare? Intanto si possono fare delle scelte di persone. Questo intanto si può fare che uno dice scelte di persone e uno dice. La prima cosa che facciamo è che, vista la situazione economica, ci dimezziamo. Se io fossi un parlamentare, che dico, tutti dicono. Sono io e importo tutto, ma tu sei un parlamentare, non ti dimezzo come tutti i parlamentari. La sinistra dovrebbe dare. Che fa? Dicono io mi dimezzo. Allora io vengo a dire, se c'è un comitato promotore come l'ha fatto Di Pietro, adesso due mesi fa, o qualcuno si sveglia, io non so, all'altezza, e raccogliamo tanti film che ce ne vuole. Votare, però se l'Italia, siamo tutti d'accordo, di destra e di sinistra, che deputato e senatore non è giusto, quello, andiamo a votare quella legge lì che si dimensiona. E la pensione, scusate, la pensiamo, penso, la pensione la dovrebbero prendere come la prendo io, come la prende il signore, come la prende il signore. Fa 5 anni deputato o di senato, ok, sono 5 anni, quando raggiungi 40 anni, 45 anni di età di pensione, ci aspettano quei soldi che ha versato, non che se ne va in pensione dopo 2-3 anni, si becca tutti quei soldi e dopo dirige un'altra azienda, cioè si becca anche tanti altri soldi. Signori, la pensiamo tutta così, ma svegliamoci, almeno qualcuno è all'altezza, svegliamoci. Sarà un po' le auguro che venga letta sul per quanto riguarda la cultura Como. Siamo proprio a zero, non abbiamo più una sala cinematografica, la storia del Politeama è da anni che va avanti come finirà, ma insomma io mi auguro che se lei venisse eletta sindaco introduca anche questo argomento per vedere di risollevare un momentino questa città. Era un cinema niente, non c'è più niente, l'astra è rimasta, oppure andare fino a un centro. Pensavo negli anni 50 il sindaco e gli assessori gratis sono sicuro. Ma io su questo abbiamo solo i gatti lì che con queste mostre che però tutti sono che rischiamo di averlo come sindaco, poi riprendiamo il giro. No, su questa cosa della buona amministrazione io vi dicevo, non ho fatto il programma con i punti dettagliati, ma la buona amministrazione io l'ho messa al secondo posto, subito dopo quello della democrazia e della partecipazione. Quindi buona amministrazione comprende queste cose. Poi allora, io credo che, poi soprattutto allora c'è un aspetto, una considerazione a quella che facevo prima, le società esterne, una valutazione in primo luogo proprio sulla necessità, sulle ragioni. Un conto è una realtà che è stata creata perché è un modo più efficiente di gestire un problema, di riuscire ad attirare anche magari di tipo privato, e un conto sono quelle che invece vengono create unicamente per avere posti e comunque all'interno del problema di competenze. A livello comunale il problema non ci sono, credo, gli aspetti così negativi che derivano dal Parlamento. Ci sono delle fasce, cioè ci sono dei margini, di solito vengono definite dei range in funzione riduzione delle dimensioni del comune per rimborsi che spettano agli amministratori, così come per i compensi per i dirigenti. Ecco, io credo che quello che debba essere fatto in una realtà come quella attuale di scarsità di risorse è che può essere fatto una collocazione nella fascia più bassa, nel livello più basso che è previsto. Devo dire che poi forse io non credo nemmeno che il far, perché un conto è il far politica come passione, un conto è chi ha delle responsabilità di amministratore. Allora io da questo punto di vista non credo che si debba pretendere perseguire l'immagine del svolgimento degli incarichi gratuitamente. Questo sarebbe assolutamente contraddittorio e possibile, anche perché vorrebbe dire che poi a occuparsi della politica sono semplicemente quelli che se lo possono permettere. Però c'è appunto una cosa di valore che non devono essere superati e l'altra cosa fondamentale dei risultati. Quello che mi indigna, cito due casi, di una retribuzione alta per un city manager, passerei sopra. Io ho fatto responsabile del personale per tanto tempo e quindi questa cosa forse mi ha segnato. Io passerei sopra al valore della retribuzione di questa persona se i risultati fossero eccellenti. Cioè, se abbiamo un grande manager che fa funzionare le cose, che le fa funzionare con pochi soldi, che è attivo nell'attirare dei fondi, che sa usare i fondi europei, eccetera, paga una professionalità. Quello che è tragico in questo momento è che si paga tanto delle persone che per caso sono arrivate in quella posizione e vanno avanti. Io a questa distinzione ci tengo molto, perché avere delle persone competenti è nell'interesse di un'amministrazione. Poi però le misuro, e se non ci sono i risultati ci deve essere il ricambio come c'è da un'altra parte. Un altro esempio di questi giorni, io ho seguito tutta questa polemica sulla provincia rispetto ad Affittopoli, devo dire che poi ha finito però con l'assumere la caratteristica di un giudizio, di una condanna nome e cognome delle persone interessate. Ora, il problema è che lì ci sono degli amministratori che cosa sia un inventario patrimoniale non lo sanno. Non lo sanno, non lo seguono, non danno delle indicazioni, non hanno una strategia di gestione del patrimonio, perché mi devono spiegare che cosa serve che nel patrimonio del comune ci sia un magazzino in via Torno e poi quell'altro sia ristrutturato per il suo garage. Okay? Ma il problema che mi preoccupa di più è che dietro non c'è una considerazione di questo problema, non sai quant'è il patrimonio che hai, non c'è una politica in cui patrimonio che hai non lo svendi in questo momento perché ci perderesti il prezzo di domini, però devi avere una logica che lo mette a valore, lo utilizzi e con quei soldi ci fai altre cose, ci fai delle case per accogliere gli immigrati, fai una politica per delle case a affitto moderato per le famiglie in difficoltà. Cioè il problema, però attenzione anche qua, quello che sta succedendo è di individuare dei soggetti, delle persone all'interno della... No, non che non ci siano le responsabilità dei dirigenti comunali, per carità, però il problema grosso politico è quello degli amministratori che altrimenti rischiano di salvarsi. Ecco, questo è un po' il modo col quale secondo me bisogna cambiare avendo attenzione a queste cose. Cerco un attimo di rispondere, ma non per rispondere, a commentare gli spunti interessanti che sono venuti e le richieste fatte. Con Donato, grazie anche per l'incoraggiamento, in effetti ci ha bisogno. Allora, innanzitutto una cosa, dicevi ci meritiamo di più, sono d'accordo, e credo che in questo momento, come città, i cittadini, come si vede utilizzato di più, bisogna conquistare il centro-destra. Io penso che in questo momento sia anche possibile. Non vi nascondo che io mi sono conosciuta appunto per la mia storia lavorativa anche molto, ho trovato tantissime persone a cui non chiedevo nemmeno di sottoscrivere la mia candidatura perché non le attribuivo. Ho creato un lite in famiglia. perché sapendo che il marito delle simpatie per il centro-sinistra ce le aveva, gli ho chiesto se voleva sottoscrivere la mia candidatura. Non l'ho chiesto alla moglie, perché l'ultima volta che ci avevo parlato avevo avuto una discussione su Berlusconi, cioè non me la sono sentita. Ho creato una lite in famiglia, perché la moglie ha saputo di fare qualcosa, e dice, ma scusami, tu credi che io in questo momento sto a fare una differenza fra sinistra e destra? Non c'è dubbio. E ho persone di questo tipo, ne ho incontrate parecchie, per cui forse si può fare, però prima abbiamo le primarie, per cui il problema è, per me in questo momento, è arrivare a superare le primarie e poi tutti quanti assieme riuscire ad affrontare questa sfida nei confronti della destra, che credo si sta poi continuamente dividendo, litigando, eccetera, mentre noi stiamo a fatica però mettendoci assieme, stiamo discutendo i problemi, stiamo facendo dei programmi, loro si stanno ancora litigando, per cui anche questo ci dà un vantaggio che dobbiamo riuscire a sfruttare. Sulle cose dette, il tema degli spazi verdi che salta fuori qua è senz'altro un tema importante per la città, sono pochi in assoluto, e quei pochi che ci sono appunto non li valorizziamo, non li utilizziamo, li lasciamo gli spazi verdi per gli anziani invalidi, per gli anziani allettati, e invece non li mettiamo per gli altri. Ecco, quindi un problema innanzitutto di difesa di quello che c'è, di difesa, di valorizzazione, di ampliamento della fruizione, questo c'è, e di allargamento. E anche io prima citavo il tema della spina verde, il tema della spina verde è una cosa, è uno degli esempi che può essere sfruttato per il verde, per la città, ma anche ai fini turistici, perché poi quando si fanno le cose per bene non è che servono solo ad uno scopo, consentono di raggiungerne molti di più, aumentano il grado di interesse dal punto di vista turistico, salve, dal punto di vista turistico della nostra città, favorisce i collegamenti, si possono, cioè lo spostamento. Cioè è una catena, insomma le ciliegie che tirano là. Quindi questa cosa del verde è importantissima secondo me. E assolutamente d'accordo sul fatto dello stop alla cementificazione. Cioè io la settimana scorsa sono rimasta molto colpita di una notizia di scala nazionale che diceva che ogni giorno in Italia si consumano 130 ettari di suolo fertile che diventa cemento. Cioè una cosa a me ha fatto colpire, tant'è che poi andando a riguardare, ma forse ho capito male, non è al giorno, no è vero, sono 130 ettari al giorno. Como ha contribuito in maniera impressionante a questa cosa, facendo anche uno scempio dal punto di vista paesaggistico. Quindi credo che il problema grosso, e qui il PCT sarà fondamentale da rivedere, da sistemare, è bloccare quelle cose poco propriose che in periferia e attorno al lago, che è vero, sono riusciti a degradare anche il centro, sono stati costruiti. Tentare un'operazione di riqualificazione, e non so con quali strumenti, però inizio a farmi un'idea, perché parlando con la gente saltano fuori, riuscire a trovare esperienze interessanti che mi raccontava oggi uno del sindacato, riuscire a trovare delle modalità appunto di conciliazione di questa situazione in cui hai tante case vuote perché hanno dei costi non accessibili alla gente che ne ha bisogno e tante persone che no. Allora si tratta in questo momento, anche piuttosto che una politica di costruzione di nuovi edifici che sarebbero nuovamente una cementificazione del territorio, di come favorire delle soluzioni che consentano, con delle formule magari studiate apposta, di utilizzare il patrimonio che già c'è agevolando gli affitti, oppure con delle formule temporanee, di aiuto temporaneo per consentire alle famiglie di entrare, di utilizzare quello che c'è. Quindi ecco, questa è una cosa sicuramente centrale per una città come Como. C'è l'aspetto dell'ambiente che poi soprattutto è collegato, perché è il problema del traffico, e allora il problema del traffico anche qua, io ho fatto la pendolare per più di 20 anni col treno, ovviamente, però devo dire che noi abbiamo delle strutture che usiamo malissimo, vedendo i lavori per la triplicazione del tratto dell'autostrada fra Milano e Como, me viene da piangere, perché proprio è uno scempio dal punto di vista del paesaggio, cioè prima arrivavi è bellissimo le montagne davanti, adesso una cosa così vasta che non... Nello stesso tempo c'è un treno bellissimo che negli ultimi tempi mi permette, di solito partivo alle 7:30 con le Nord, l'ultimo anno prendevo 8:12 a San Giovanni. Ci sono questi treni, dei treni regionali Svizzera a Lombardia, che parte alle 8:12 da San Giovanni, puntuale perché non arriva dall'estero, e alle 8:52 a stazione centrale Milano. Quindi ci sono 40 minuti di viaggio. Se questo treno, anziché essere concentrato o essere soltanto nelle fasce di maggiore intensità e terminare al ritorno all'ultimo alle 6:10 di questo genere, poi gli altri sono molto più... Cioè, forse diventasse una sorta di metropolitana, avesse una frequenza molto più elevata, ma chi si mette in macchina per andare a Milano, che ci impieghi senz'altro più di 40 minuti e ti costa una barca di soldi? Solo che, cioè, non si investe sul trasporto pubblico, in questo caso il trasporto ferroviario, non si investe con i punti di interscambio, e invece i grossi lavori di ampliamento dell'autostrada sono stati fatti. Cioè, ecco, questo è un esempio, ma sicuramente, quindi io non voglio fare appunto l'elenco delle promesse o un programma così dettagliato, però sicuramente su tutte queste scelte che poi l'amministrazione dovrà affrontare, e vorrei che venissero appunto considerate con le giuste priorità. Il programma, a parte che, visto che Piappulici poi il blog lo guarda, troverà spesso una cosa un pochettino più dettagliata. Ripeto, non voglio arrivare a del programma specifico, perché il mio impegno è che poi il programma lo si stende con le altre immediatamente dopo. Però ho provato un po' a declinare quali sono le caratteristiche del cambiamento. Ecco, io insisto su questo. Non mettere al primo posto le periferie, al primo posto. No, non ve lo metto, no, non c'è né al primo né dopo. Ma non c'è, perché è riassunto in quel concetto che dicevo prima, attenzione e ascolto, e allora si ascolta tutto. Allora, una delle cose che comunque il tema dell'educazione per me è fondamentale, e ve lo dicevo prima, ma proprio perché con l'educazione dei bambini parte la possibilità di dare a ciascuno più opportunità possibili crescere secondo le proprie capacità, il proprio merito, e non condizionare. Per me questa è una cosa centrale. Già ne citava Don Milani è stato una delle pietre della mia giovinezza, e quindi e questo è forte. Ci sono le considerazioni che faceva Graziella prima, quindi non solo la scuola, ma anche tutti quei servizi accessori che garantiscono parità di opportunità anche soprattutto ai più svantaggiati, un'assistenza, insomma. Poi, se vogliamo che più donne lavorino, cioè, sarà anche necessario che un posto dove lasciare i bambini, ma a partire dagli asili nido, dove lasciare i bambini ma non abbandonarli, lasciarli, perché... No, comunque questo è scusa che la interrompo, questo perché siamo obbligati, sono obbligati in questa coppia di andare a lavorare, però io per portare il bambino deve pagare 700-800 euro, se andiamo a controllare, credo che c'è una busta paga, la devo controllare per il bambino. Sì, ma purtroppo il discorso sono le medicine. E quindi il problema dei servizi, secondo me, è una cosa importante. Allora, prima l'educazione, poi i servizi, in modo particolare dove un'altra delle mie sottolineature è quella di costruire il futuro della città di Como come elemento di futuro. E allora per me il futuro, pensando ai cittadini, vuol dire pensare a tutti, ma soprattutto a due categorie, i giovani e i bambini. I giovani e i bambini rappresentano il futuro collettivo questa città, quindi investire il più possibile su di loro, perché è un investimento che ci tornerà collettivamente in avanti. Investire sugli anziani perché io dico gli anziani sono il nostro futuro individuale, se ci va bene, io sono già arrivata a 60, se ci va bene anziani diventiamo anche noi, e quindi un'attenzione a quello che, a quelli che sono i bisogni degli anziani è fondamentale. E io però quando penso ai bisogni degli anziani non voglio parlare solo di case di riposo, di persone non autosufficienti, certo che sono delle esigenze drammatiche, ma il problema è riuscire a una politica che consenta alle persone di essere indipendenti il più a lungo possibile, di non sentirsi di peso a nessuno, di utilizzare le risorse, le capacità, l'energia e l'esperienza che le persone anziane hanno. Ecco, quindi anche questo, che non è solo politica per gli anziani. Faccio un esempio, i bambini che devono uscire da scuola, una serie di queste attività, il taglio dei vigili, ma insomma trovare modo su queste attività di coinvolgere in maniera più organica delle persone che hanno tempo a disposizione, che sono uscite dalla loro esperienza lavorativa, non è possibile. E anche qui lo potremmo fare, o gratuitamente, come dice Gianni, perché ha questa visione ideale che le persone fanno tutto per generosità ed è bello, però non lo so, a me piacerebbe anche inventarmi degli altri modi, magari su delle altre attività. Cioè, perché la tassa dei rifiuti, ad esempio, non può essere immaginata come con degli sconti o pagata da delle fasce di popolazione, non cash, non in soldi, ma attraverso servizi per la collettività che fanno. Cioè, c'è modo di pensare a tante cose, che poi è anche un modo appunto per far sentire attive le persone più a lungo, per inserirle, per non lasciarle alla solitudine della panchina o dell'andare a vedere quelli, neanche pescare, guardare quelli che pescano. Cioè, con queste cose potrei andare avanti, nel senso che ce le ho presenti, cose di questo genere, però diventerebbe porterei via troppo tempo. Ecco, il tema degli immigrati, del disagio, l'ho citato prima. Ecco, quindi non vorrei sembrare elusiva, non stare a fare un elenco, però mi sembra molto più importante, soprattutto in un incontro così diretto e vero, dire lo stile, le cose importanti con cui si affrontano i bisogni della città, poi le cose da fare sono quelle di cui ciascuno ha bisogno. Mentre parli ti voglio dare un consiglio, mi ricordo la campagna elettorale precedente con Giorgio Carcano, che erano i quattro candidati sindaci. Allora, l'esperienza in consiglio comunale già fatta, se dove ti insegna a ricordarti che avrai un gruppo di dirigenti, di funzionari, di dipendenti che non faranno mai quello che tu stai dicendo, se non trovi una motivazione per farglielo fare, o un gruppo che ti può seguire. Per cui bisogna essere preparati ai due fronti, cioè a sognare le soluzioni che possono essere e dire anche sì, però poi nella realtà vediamo un po' come si fa, perché anch'io seguo tutti i bambini disabili, guarda che gli insegnanti di sostegno a scuola dove sono? Ormai stanno utilizzando gli insegnanti di sostegno che hanno creato per il normo dotati e li hanno trasferiti alla Ripamonti per tutti i miei disabili gravi, per cui ci ritroviamo con gli insegnanti di sostegno che non sono competenti solo a seguire i miei ragazzi, cioè dopo purtroppo però vanno collocati. Per cui tutte queste cose devi fare la locomotiva per i vagoni, ci vogliono anche i vagoni che poi formano con le competenze e bisogna crearle queste persone. Nel piccolo paese si risolve il problema, lui lo sa che a Cavallasco, io lavoro nel comune di ci sono i nonni civici, sì, compagni di bambini, scuola, c'è sempre la famiglia che lo vuole accompagnare personalmente, però già ci hanno proibito e invitano andare a parcheggiare davanti alla scuola. Infatti, ci sono i nonni civici. Si arrivare a proibizione della via Borgovico, tutti a mezzogiorno che vanno, quando i bambini si fanno attraversare la scuola davanti alla scuola, vanno nel piazzale di Villa Olmo e vanno là, faranno 500 metri a piedi, li fa anche bene, però tutte le macchine bloccano Borgovico. E Borgovico poi arrivi. Bisogna avere quello che hai detto tu, il futuro della città, bisogna analizzare un po' le situazioni, proporre delle soluzioni possibili, perché poi devono essere possibili, e nello stesso tempo avere poi il coraggio che mi sembra che hai detto che hai. Avete giocato a pallacanestro, ci credo, che la grinta e la capacità di lavoro di squadra c'è. No, fondamentalmente io che insegno educazione fisica, sono fisioterapista, cioè nei due settori ci credo, Io credo quindi una cosa, io sono felice per le cose veramente che sono emerse stasera, sia da parte appunto di una parte di un quartiere, di una popolazione che ha sempre lottato, che si è sempre interessata per migliorare le cose nel loro posto dove vivono, anche perché sono tutte cose che sono state citate che anch'io condivido pieno e che diciamo vivendo a Como ho sempre sentito e proprio mi stanno veramente molto a cuore, quali ad esempio quello dell'ambiente, quello del verde, anche questo piccolo discorso delle panchine, secondo me è fondamentale. Nel centro Como ad esempio sono scomparse tutte le panchine. Perché? Per favorire ovviamente i bar e i commercianti, che la gente non è più libera di sedersi, magari leggere su un giornale qualcosa, una panchina in una piazza, che sono scomparsi, perché deve per forza arricchire e fare in modo che le persone si sentano per consumare. Ecco, secondo me proprio quest'idea, diciamo, di cambiamento, anche da piccole cose come queste, di cambiamento, cioè di visione della città, come appunto come relazioni sociali, come appunto condivisioni, senza la necessità per forza di tirare fuori qualcosa, di spendere, secondo me è molto importante, come anche quello appunto di far fruttare, diciamo, gli edifici che già ci sono, bloccare la cementificazione, che è veramente, come citavi tu prima, in Italia è veramente devastante la cosa, veramente fa venire la pelle d'oca. Che noi stiamo rovinando sia il mondo che il nostro paese in questo senso. Quindi l'ambiente è veramente una cosa che non si può più far finta di sapere, bisogna avere molto coraggio. Coraggio perché ci saranno tante persone con grandi interessi, grandi affari, grandi imprese che faranno di tutto. Io me lo auguro e spero che tu verrai eletta proprio per questi elementi che possano, diciamo, che tu possa tenere duro. Però sarà veramente una lotta, proprio anche con una, come diceva la compagna, proprio anche per una certa dirigenza che si è, diciamo, radicata, dirigenza non solo politica, proprio una dirigenza, diciamo, a livello comunale e anche provinciale. Quindi è anche un cambiamento, secondo me, un inizio, un cambiamento, diciamo, socioculturale, appunto, di come condividere e vivere veramente la città. Che poi io penso appunto che questo modo possa favorire anche un benessere psicologico e mentale per i giovani, soprattutto per i giovani, perché i giovani stanno crescendo con un malessere psicologico, perché vanno esclusivamente, perché noi stiamo insegnando esclusivamente che la forma e l'esterno è la cosa più importante e non badano più a se stessi, a loro quello che hanno loro dentro. Questa cosa la possiamo mutare, cambiare, iniziando facendo appunto una politica di questo tipo e pubblicizzandola, quindi pubblicizzando, diffondendo questo nuovo pensiero in qualche modo, perché grazie solo a questa diffusione si possono cambiare lentamente le cose, proprio perché in tanti anni, dagli anni 80, 70, si è iniziato, come abbiamo visto, c'è stata, diciamo, questa chiusura invece. Allora noi dobbiamo cercare appunto di riaprirci all'altro, che è quello, secondo me, molto, molto importante della sfida. Io penso appunto che ci voglia per far questo un'equipe, diciamo, quindi un discorso, come dicevi tu, in primis di partecipazione, di mediazione anche con gli altri candidati che verranno, che saranno, diciamo, aiuteranno in questo percorso e quindi appunto per poter, diciamo, piano piano appunto cambiare le cose. Anche il lago, noi abbiamo un lago che è stupendo, eppure è possibile che nel 2011 abbiamo ancora i tubi delle fogne grosse così fuori che scaricano dappertutto, che c'è un odore pazzesco. La fauna, la fauna acquatica del lago, io non so come possa vivere che è fondamentale, e poi si stanno riempiendo le barche, anche questo, cioè ci sono gli interessi. Io l'ultima cosa dico, sul lago, ecco, oltre a questo aspetto che mi sta a cuore, noi abbiamo appunto questa opportunità che è bellissima. Io sfido cosa potrebbe essere utile per i giovani avere uno spazio che affaccia sul lago, che non sia occupato da un club o da un qualsiasi altro club che c'è, che sono solo club qui sul lago, cioè la canottieri da una parte e la comunuoto dall'altra, che occupano le uniche due spiaggette che ci sono e basta. E quel poco spazio che c'è, ci sono le fogne, i tubi delle fogne, il cosia che sfocia. Allora io dico che sarebbe veramente un grande sforzo, secondo me, per i giovani, da creare, veramente sarebbe una grossa rivoluzione, creare una piccola, una bonifica magari, di una piccola parte. Ora io non parlo per carità, non so, però sfruttare quantomeno quel poco spazio pubblico che è rimasto prima che i privati, i club si impadroniscono pure di quello, perché poi piano piano, come avviene nelle spiagge del sud Italia, oppure che è già avvenuto appunto in cosa è già avvenuta in Liguria, cosa è già avvenuta a Ricciolo ovviamente, però ancora facciamo in modo che non avvenga anche in quei pochi spazi e regaliamo una bonifica di un piccolo spazio sul lago che si occupa e si impegna il comune di poter far poter far usufruire a tutti, alla cittadinanza, andare a prendersi il sole, magari anche un domani, chi lo sa, è difficile, anche bagnarsi in un certo senso. Questo secondo me, questa sarebbe un'altra grande cosa che comunque dovrebbe valutare, avere il coraggio di quantomeno comune insomma sfidare anche questi. Non è possibile che c'è lo yacht club, c'è la canottieri lago, c'è tutto, hanno preso tutto lo spazio e i giovani oppure gli anziani che o tutte le persone non possono accedere al lago, all'acqua che è di tutti. Questa è una cosa insopportabile, più non è più sopportabile, uno deve pagare 1.000 euro per andare per accedere al lago, perché in quei posti non può fare soltanto uno che può, deve pagare, così come è sempre stato, come è sempre, come va il mondo così. E allora no, questo non lo dobbiamo più permettere, come le panchine, uno se io voglio stare seduto in piazza San Fedele non voglio consumare, voglio stare seduto su una panchina, rivedermi la piazza, vedermi la chiesa, è questo che voglio vedere il re. Hanno messo 5, vi pongo un ultimo esempio, hanno messo 5 panchine, miracolo, nella piazza Verdi. Sapete che ogni volta che passo è pieno di giovani che sono seduti lì, che si ritrovano. È una cosa bellissima questa, perché 2 panchine fanno un ritrovo nella città. Se no cosa ci sono? Li addebitiamo esclusivamente al bar. Quindi i simboli fisici che ci sono importanti, perché poi costituiscono le relazioni sociali, vengono riempiti. Perché non è vero che i giovani perché stanno in casa? Stanno in casa davanti alla televisione o al videogioco? Perché? Perché non hanno più spazio fuori, non c'è più, si è esaurito. Ma appositamente, perché questa è stata la politica per tanto tempo, perché poi c'è il problema dell'ordine pubblico, ci sono altre cose, quindi i politicanti preferiscono tagliare il problema in questo modo, oppure comunque favorire. Volevo tornare un secondo. Secondo me questo è. Secondo me questo è proprio complimenti. Direi che la tifosa possiamo dire. Io volevo dire appunto che questa sera abbiamo tirato fuori tante belle pensieri, illusioni, sogni, speranze, però ricordiamoci che questa amministrazione lascerà sulle spalle della futura amministrazione dei casini, delle pastoie per la ticosa, per le paratie e chissà per quante altre vicende che magari a noi comuni cittadini sono sfuggite, ma su queste cose, questioni legali che purtroppo metteranno una palla al piede nel futuro sindaco. Quindi è giusto che in questa fase noi ci apriamo una speranza, però Non so neanche se un curato è possibile di rifarcela, perché guarda, credo che non è che non ci abbia pensato questa cosa qua, non è che sarà un gran casino, perché loro stessi, se non riescono almeno a fine mandato, no, a dare una via d'uscita, una speranza alla città, perché davvero si sono infilati in un casino che è grosso come il tuo. Sì, ma è la stessa cosa che succede a livello nazionale. Esatto. Allora io oggi però vorrei fare qualcosa di positivo, cioè io prendo atto di cose positive che sono, prima di tutto che Gisella è una donna, ti do del tuo, adesso ti provo direttamente. Hai sempre fatto. E questo ti dico, ma non per fare quello che è dalla parte delle donne. Dico, quando io disegno il sindaco, sono d'accordo con Giuliano, il sindaco non deve essere competente di tutto, deve crearsi una squadra, ma la cosa che vorrei chiedere invece a Supino, ma come mai questa giunta è litigiosa, non ha mai portato avanti? Io sono rincuorato da te, perché sei una persona che si è lavorato nell'Unione Camere, si è lavorato in un ufficio personale, avrei dovuto comunque mediare delle situazioni. Secondo me il sindaco deve essere uno che si crea la squadra. Se il city manager è bravo, ok, tienilo, però mettilo alla prova. Se dopo un anno non ti ha dato i risultati, lo prendi a calci nel culo e lo butti fuori. Cioè, io sono molto pratico. Cioè, noi dobbiamo tornare a parlare della famiglia e all'azienda, ma non l'azienda di Berlusconi. Berlusconi e Bruni non sanno che cazzo sono i problemi della gente, il problema suo, il problema suo, perché vivono in un mondo completamente rarefatto. Loro hanno i problemi solo di andare a farsi, lasciamo perdere. Secondo me il sindaco deve mediare, ma deve mediare anche con l'opposizione, deve riuscire a convincere. Io vi dico, ma perché voi non lavorate per il bene della città? Tu lo so, perché ti conosco da 30 anni che lavori per il bene, e l'altro giorno ti ho incontrato e ti ho detto, se non ci fossi tu ogni tanto a infiammare, ti sei beccato le tue randellate, ti hanno messo anche sotto accusa per certi versi. Ma perché deve succedere che una giunta nemmeno minimamente i suoi problemi? Guarda, io credo in una soluzione. Allora, nell'ambiente, vi ricordate lo stradino che arrivava con quell'ape? Faceva una presenza sul territorio, c'era la buca, se poteva la chiudeva lui, se non poteva, chiamava, arrivava l'impresa, perché dopo arrivano le imprese, fanno sempre i lavori male, tanto per te. Loro devono riportarci sul territorio. Se tu hai una persona che passa quello di Abate, quello di Prestino, quello di Saino, fai in modo che tutto almeno funzioni abbastanza bene. Sono d'accordo con Graziella che sia a livello nazionale o locale avremo ancora tanti debiti da sbattere, ma se non abbiamo le persone, lei mi ha rincuorato, che cominciano dai piccoli problemi a risolverli, se no ragazzi cosa facciamo? Cambiamo l'azione, andiamo a votare in Svizzera. Il stradino fa tutto, però sì. Io dico il sindaco non dobbiamo mettere una rosa mezzo l'ortica, eh? Certo, ma perché io sono rincuorato perché lei è comune, sono sicuro che cercherà comunque di creare accordo. Ma guardate quello che succede anche nell'amministrazione provinciale, ma si smembrano all'interno della coalizione. Io voglio che lei sia una che crei la squadra e sono sicuro, da quello che mi ha detto stasera, che lei medierà e cercherà di fare il bene della città. Cosa che personaggi tipo Berlusconi a livello nazionale e Bruni a livello, diciamo, cittadino, ma quelli i problemi non hanno i nostri problemi e non vedono il problema del bambino, dell'asilo, della signora di qua di là, dell'handicappato. Io non sono venuto qua per cercare di capire chi ho davanti. E cercherò, e tutti dobbiamo farlo nel nostro piccolo, di dire qua ho conosciuto una persona che sono comunque sicuro e tranquillo che farà il bene della città, il bene, e lo farà nel miglior modo possibile. Una questione che ho sentito prima a proposito del centro di accoglienza, non ho capito bene cosa è successo, se me la spieghi meglio. Oggi hanno riaperto. Ma in che modo? In che modo? Perché c'è un'emergenza sotto il punto di vista della struttura che è in via Tibaldi, che è una struttura veramente disumana, nel vero senso parola, dell'accoglienza delle persone. Allora, noi già da tempo facciamo una volta finché, voglio dire, vengono un po' armonizzate le situazioni di accoglienza, non di fare un centro unico e basta, Però hanno chiesto di fare un'armonizzazione sul territorio che si è in grado di accogliere senza fare i concentramenti o i ghetti. Adesso attualmente sono 83, perché questo? Perché adesso faccio c'è un'altra domanda, scusa. Scusa, ma tutti 83 qua, perché anch'io ho sentito oggi, ho incontrato per la sono 83, tra l'altro sono 11 minori di queste cose, che non possono stare insieme. Sono stati in taverna che ha spostato. Come? Sono stati in taverna che ha spostato. Sì, sì, gli attivati, scusate, io ero lì. Non c'erano là, ma cosa esatto. Fai? Capiati, ce li mandano quanti anni. Esatto. Quante persone sono dedicate a seguire, a assistere? C'è una cooperativa della CIS, delle ACLI, adesso non, c'è questa cooperativa che segue, cioè demandata la cooperativa, che i servizi sociali hanno diciamo appaltato questa cooperativa. Che, il comune di Como non ci mette un centesimo. Però non è che sono pagati 45 euro al giorno. 46. Però la mia domanda è adesso valutare un aspetto. È una cooperativa che fa da mangiare o è una cooperativa? Sì, fa assistenza, in sostanza. Per me ci sarà un cater che sarà un comune da mangiare, poi un altro. Ma per esempio a Rembio, dove appunto ospitiamo dei prof. No, era sul tema, scusami, era sul tema dell'assistenza non alimentare, dell'assistenza del contorno che ci deve essere attorno a 80 persone, che sono persone. Per esempio, nei confronti della comunità di Prestino, che quel centro l'ha visto nascere, utilizzato un po', era un centro di prima accoglienza, poi centro di seconda accoglienza, poi centro di non accoglienza, poi l'hanno ingrandito, poi hanno portato qui dei poveretti al mattino e li portavano via la sera. Ecco, per esempio questa iniziativa di utilizzare questo centro, di portare 80 persone, è stata fatta senza tener conto della, diciamo, della comunità di Prestino. Sì, certo. Io, ma, se, ma non so, no, ma lo dico in senso molto negativo, allora, ignorando il fatto che a Prestino ci sono comunque delle realtà di persone che potrebbero partecipare, aiutare, intervenire. Sì, sì, esatto. Beh, sì, lì, so, guardate, basta saperlo. Lì sono delle persone che arrivano dai vari stati, lì non è che c'è l'immigrato marocchino, tutti marocchini, lì tutta parte del mondo, cioè adesso diciamo... Cioè, insomma, per dirlo ancora più esplicitamente, la mia preoccupazione è che non sia un avio trasportare delle persone che non ci stanno più da una parte e le posteggio da un'altra, allora, perché se fosse così non sarebbe una bella cosa. Allora, la comunità, diciamo, le persone di Prestino di questa cosa lo sapranno domani, sì, mica ieri. Infatti, grazie. Questo per dire. Infatti è vero. Vabbè, ma comunque. Sì, no. Confermando quanto sta dicendo Donato, stamattina ho fatto un incontro con Bernasconi della Caritas, che appunto comunicava questa novità, allora che è stata, come ricordava prima Donato, motivata dal fatto che a Tavernola c'è questo centro di accoglienza dei profughi libici, che adesso Bossi dice è finita la guerra, li rispediamo, e che sono arrivati, che vengono dirottati sul territorio, eccetera. A Tavernola già erano saturi, ma soprattutto a Tavernola non ha mai funzionato la caldaia, per cui fin tanto che l'estate si è prolungata non ci sono stati problemi, non sono stati affrontati. Adesso col freddo la cosa è diventata urgente, tragica, e sono ritornati su questa. È vero che queste cose rischiano di passare sopra sopra terra, però con ogni probabilità, cioè, io posso solo dire, per esempio, in questo caso posso testimoniare che un paio d'anni fa e in più riprese da un punto di vista, diciamo, parrocchiale, questa volta abbiamo chiesto in comune di poter avere degli interlocutori per capire cosa diavolo si pensava di fare e come si voleva utilizzare. Pensi che sia successo qualcosa? Meno di niente, no? Non c'è interlocutore. Non ci sono interlocutori, ecco. Dopodiché io critico, ma nel senso, avete capito, insomma, critico che da un giorno all'altro si prenda e si spostino degli oggetti. Non è così che bisogna fare. Sì. Sì, in questo caso credo che gli oggetti in questione siano stati molto contenti di essere spostati. Sì, cioè, ma poi, Giselle, no, diciamo che poi volendo, se una buona volontà, ti allaccia. Scusate, ma ci sono anche i 20, 22 in piazza Camerlata, all'hotel Brunetta, all'albergo. Della carica. Va bene. Segnalare che mi ha colpito è questo, perché in questa rapidissima conversazione, che è stato solo un accenno, aveva fatto delle domande rispetto alla condizione di queste persone, che sono persone che oltre a tutti i disagi della situazione hanno anche quello che sono costretti alla inattività, perché non possono lavorare perché nemmeno le cooperative possono impiegarli, per cui c'è da trovare delle soluzioni intelligenti che consentono a queste persone che già sono dalla porta, no? Stanno chiusi dentro, capito? Ma devono trovare, capisci, andare incontro trovando un modo per offrire. Stanno facendo delle, sempre la carità, delle attività, ad esempio insegnargli la lingua, perché poi possono muovere, cioè le minime cose. Però secondo me, se si trovasse modo e stanno anche tentando di impiegarli in alcuni lavori, ad esempio la cucina, dice, gliela fanno fare a loro, anche perché così cucinano secondo le loro tradizioni. Però ecco, una comunità attorno, quello che potrebbe fare è inventare delle soluzioni in cui loro sentirsi utili per una persona, secondo me è una cosa fondamentale, e credo che anche per loro lo sia, e quindi dare un senso a questa loro esperienza è una cosa che, quello che ci vuole, il quartiere può pensare. Abbiamo parlato di... ci sono altre... Io volevo rispondere positivamente a quei miei ragazzi, no? Il cemento. Ecco, io forse non lo voglio. Però, diciamo, lui ha detto che ci sono 3.000 case senza cemento. E scusi, ma se così il proprietario se voglio affittare, cosa si fa? Ecco, allora, io su questo bisogno della gente posso obbligare. Sì, no, affittarle. No, come mai? Io non voglio mai lavorare nel concetto dell'obbligo. No, capito? Bisogna trovare sempre le ragioni di interesse dell'uno e dell'altra parte e fare in modo, perché poi anche quello che c'è alla casa può essere scritta alla fine. Allora, Giuseppe, per esempio, le cose che diceva la Giselle si potrebbe fare in questi termini. C'è una domanda di 650 famiglie che non riescono a accedere a queste case perché è costretta. E c'è dall'altra parte 3.000 appartamenti vuoti. Allora, cosa deve fare l'ente pubblico? Deve mettere insieme la domanda e l'offerta. Io ipotizzo, ma questo lo dice Supino, la Giselle dice, io ipotizzo un'agenzia pubblica che mette in contatto la domanda e l'offerta e ammortizza quella parte di parte che non ce la fa, cioè in sostanza il comune interviene per queste persone anche in termini sociali. Allora un'agenzia pubblica, se mi dici tu Supino cosa faresti? Io farei questo, un'agenzia pubblica che mette la domanda e l'offerta, li fa incontrare e quando si incontrano questi, io salvaguardo quelli che hanno l'appartamento che ce l'hai indietro quando la necessità, perché c'è anche questo problema, perché uno dice io non affitto perché dopo è dura riprende la casa. Io ente pubblico faccio da garante su questo, faccio da garante anche sull'aspetto dell'affitto, dopodiché io metto in relazione queste cose e intervengo anche in termini economici, che oggi il comune spende di più e do un servizio brutto. Se facesse così, come ipotizzo io, penso di avere delle idee su questa cosa. No, assolutamente, ma è incredibile. Cioè, quando si parlava prima delle case, eccetera, che tutto quello che è avvenuto, voi sapete che, e guardate che gli affitti, noi abbiamo famiglie che non riescono, no? Per esempio, ci sono quartieri come questo, ma anche a Rebbi o alla Russia, per chi sa che la cosa in via Sapienza. In sostanza, noi abbiamo gente che non ce la fa più a pagare. Allora, no, ma sapete però che nelle case comunali, che sono 700 appartamenti, sono 750, le devono vendere per ristrutturare degli altri, col patrimonio, poi magari anche su questo possiamo fare una discussione. Allora, sapete un attimo che c'è meno, cioè meno morosi, nel senso che pagano su queste case che non sulle attività commerciali, cioè tutta quella parte che non è diciamo affitto per abitazione, c'è più. E voi sapete, nel 2010 il Comune non ha introitato 80.000 euro, e non è che siano poi anche 80.000 euro. Questi soldi, se il Comune gestisse bene questa parte del patrimonio, guardate che entrano dentro dei soldini, e correttamente, perché poi c'è gente che fa i furbi su queste cose. Non è che gente sta male, non ce la fa pagare, perché se uno non ce la fa, bisogna andargli incontro. Ma abbiamo invece una situazione di questo tipo. Perché succede questa situazione? Perché l'amico dell'amico sa che io tanto il contratto non te lo rinnovo, vai avanti lo stesso, non ti preoccupare, vai avanti lo stesso, poi non si adeguano gli affitti. Questi commercialmente guadagnano un casino di soldi, hanno bar, ristoranti, eccetera, guadagnano un casino di soldi, poi dopodiché questi qui non entrano nella cosa. Poi anche, si prendono anche la libertà di non pagare. Noi abbiamo queste situazioni. Allora, se andiamo indietro, io lunedì presenterò questa cosa sulla... Fate la sfiducia all'assessore del patrimonio, ma lunedì io chiederò, perché la sfiducia è provocatoria in questo caso, ma io chiederò una commissione speciale per fare il quadro generale, perché hai ragione tu, ma cosa me la vado a prendere con quella lì che ha lì un magazzino su via Torno, che, ma dove che stiamo? Ma noi abbiamo un problema, via Sparta, scusate se mi dico questo, via Sparta, le case via Sparta, sapete che ci sono 40 box vuoti, 40. E se voi andate via Sparta, fate nelle case, tutto pieno di macchine, io non so chi conosce, tutto pieno. Perché questo? Perché ci sono delle persone che pagano 700 o 600 euro d'affitto all'anno, perché hanno poche entrate. Come fai a affittare un garage di 800 o 1500, perché sono di due tipi? Come fai se non la fai in proporzione? Allora, io, cosa abbiamo lì il risultato? Abbiamo il risultato che abbiamo il garage vuoto, le macchine in mezzo alla strada e comunque degrado il patrimonio. Scusa se uno non ha, però chiudo con questo. Chi è che diceva prima? Io credo che con la passione e essere anche un po' di utopia, metterla dentro, cambiamo le cose, le cambiamo. E quella ragazza lì qualcosa ce l'ha. Già, sì, ma denunciano non sopra. Grazie, arrivederci.